non c'è stato il tempo per parlare, e così ti scrivo da dietro questo freddo blog, spalle all'isola, fronte al mare, ma al fianco di me stesso. La storia mia, e a volte un po' mi brucia il fatto che fra noi il finale sia scontato, ma la trama quella no, come una nuvola nel maestrale si è trasformata spesso, e ancora adesso sta cambiando insieme a me. Così è così che tu non sei mai stata uguale. Da così a così, sì, tu sei tu, la storia mia. E scorre il tempo sopra le parole, dentro ad un diario, fra rimorsi e tanti no, ogni virgola, ogni frase si è trasformata spesso, e ancora adesso sta crescendo insieme a me. Così è così che tu non sei mai stata uguale. Da così a così, sì, tu sei tu. Ma una storia è bella se è libera, se tu la lasci andare, dove ti può portare si vedrà, dietro quanti amori ti perderà, per poi ricominciare e a farsi perdonare. Riuscirà così e così che tu non sei mai stata uguale. Sei così così, ma tu sei solo mia. Anche se sei tu, così così. Anche se sei tu, così così, sei solo.